sai tu volto Laura, sai men pa giù pangò otto dangala ni rupa mi umahina usai ro tu ho ora lu ni ribassando ma better pan rohat Sato tong ti urusure sakata una pesa e marsi non da mano cani chitarra dua Sai mar, signor, onda, ma non te.